Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Io sono Irene Mangani e sono vicepresidente di Lega Coop Toscana. Poi arriviamo anche a raccontarvi che cos'è Lega Coop Toscana, ma insomma oggi provo a raccontarvi, anche se penso che la maggior parte di voi lo sappiano già, un po' che cos'è una cooperativa e perché potrebbe essere interessante pensare alla forma cooperativa. Ci siamo un po' divisi Giovanni, un mio collega, che è quello serio, appunto, mi dicevo a chi era fuori. Quindi poi entriamo proprio nel merito anche di come è organizzata, però volevo prima provare a darvi un'idea di quello che è lo spirito della cooperazione. Allora, però le vorrei scorrere io, piano. Va bene, non importa. Torno indietro? Sì, grazie. Allora, vi volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai visto una di queste foto. Andiamo avanti. Questa qualcuno ce l'ha presente? Questo è lo sbarco in Normandia. Questa. Anche questa penso che qualcuno l'abbia vista. Allora, queste quattro foto sono di quattro fotografi diversi, però hanno una cosa in comune. Questi quattro fotografi, che sono, Giovanni scorri per favore, che sono Alicante Bresson, Robert Capa, Elio Termit e Steve McCurry, sono tutti soci di questa agenzia che si chiama Magnum Photo. La Magnum è, direi, la più grande agenzia fotografica al mondo, ha sede a New York e a Parigi. È stata fondata nel 1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale. È una cooperativa. È una cooperativa e nasce come cooperativa per volere principalmente di Robert Capa. Robert Capa nella guerra, anche un po' prima, ma insomma, in particolare nella Seconda Guerra Mondiale, vive un periodo particolarmente intenso. Prima gli muore la compagna, che è Gerda Taro, una fotografa anche lei, muore come fotografa di guerra, è la prima donna fotografa a morire in guerra. Robert Capa fa quella foto ed altre dello sbarco in Normandia, quindi si mette molto in gioco, torna a New York dopo la guerra e si rende conto di due cose. Si rende conto che tutti intorno a lui sono devastati da quello che hanno vissuto, che c'è bisogno di ricostruire, non solo ricostruire le macerie, ma anche ricostruire le persone, e che se vuole continuare a fare quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè il fotoreporter, lui è uno dei fondatori del fotogiornalismo, bisogna cambiare un po' di carta in tavola. Perché come funzionava? Funzionava che i giornali, le grandi testate, i grandi tabloid, commissionavano ai fotografi i reportage che volevano. Quindi gli dicevano vai qui, fai le foto, e acquisivano i negativi, acquisivano le foto. Questo cosa voleva dire? Che il fotografo non decideva granché, non decideva dove andare, quando, e perdeva la proprietà di quello che faceva, la proprietà intellettuale, perché i negativi diventavano di proprietà del giornale che aveva commissionato quel servizio. Che cosa fa Robert Capa? Che è un personaggio molto carismatico, insomma, che aveva un sacco di conoscenze di altissimo livello, quindi era amico di un sacco di persone molto in gamba. Ne riunisce un po' e gli dice: cambiamo le carte in tavola, cambiamole noi, diamo vita a qualcosa che cambi questo sistema. Quindi nasce la cooperativa Magnum. E che cosa fa la cooperativa Magnum? Intanto si diventa soci dopo un periodo di apprendistato, quindi è un onore essere ammessi a diventare soci della Magnum. E poi decide che vogliono influenzare il mercato, mi viene da dire. In realtà è addirittura creare quel sistema, perché appunto il fotogiornalismo nasce un po' in quegli anni, perché iniziano le tirature dei giornali ad essere molto di più, ad esserci più soldi per pagare le persone, quindi diciamo che loro costruiscono questa scatola dentro la quale ci sono i soci che sono i fotografi e iniziano varie battaglie. Intanto decidono loro dove andare, quindi sono i fotografi che presentano alla borda CDA della cooperativa le storie che vogliono provare a raccontare e si decide insieme quali ha senso seguire e quindi per quali si pagherà il volo e gli spostamenti. All'inizio non quasi mai viaggiano in aereo perché costa troppo, non se lo possono permettere, e quindi iniziano viaggiando in nave, in treno, eccetera. Quanti rullini si danno ai fotografi, perché il rullino costa, e quindi quanto si può puntare su una storia o su un'altra. La Magnum cresce e, riunendo i più grandi fotografi del momento, riesce a imporsi. Quindi via via, col tempo, Elio Terbit è uno, fa il presidente, si alternano ovviamente nelle cariche sociali. Quando Elio Terbit fa il presidente è uno dei momenti in cui la lotta contro il mondo dei tabloid è più forte, ma riescono a imporre il loro modello, quindi riescono a non vendere il negativo. Loro iniziano a tenere la proprietà intellettuale, quindi i negativi sono di proprietà della cooperativa Magnum, e i giornali hanno il diritto di pubblicare le foto, che è un passaggio cruciale nella storia del fotogiornalismo. Ora si sta tornando a quello che volevano prima, ma insomma, chi vuole lavorare con la Magnum lavora in questa maniera qui. Questa storia, se ne avete voglia, andatevela a leggere, a guardare, perché ha un'altra caratteristica, oltre a essere riuscita davvero a cambiare la storia del fotogiornalismo nel mondo e anche a farci avere delle foto che probabilmente non avremmo avuto altrimenti, quindi Cartier-Bresson fotografa al funerale di Gandhi, restando molto a lungo in India, e non si sa se, insomma, diciamo che ci ha consegnato delle foto che sono di immenso valore, ma è interessante anche capire i rapporti tra queste persone. Scorri ancora, per favore. Questa è una foto dell'assemblea della Magnum. Praticamente, diciamo, giocano, è facile così, no? Cioè, c'hanno i migliori fotografi al mondo, le foto sono abbastanza interessanti, quindi questo è Herbit che fotografa, e quindi lui fa tutte queste foto anche buffe, e quindi fanno una foto in cui non si vedono le loro facce, ma sono nel loro campo sono i più famosi di quel momento. Le cariche sociali, quindi il presidente cambia, e cambia fra di loro, quindi quando andate a vedere una mostra di foto, sono andata a Venezia a vedere la mostra di Inge Morat, e non lo sapevo che lei era una fotografa Magnum, ho scoperto perché in uno dei video, dei pannelli che c'erano, lei racconta che all'inizio lei scriveva le didascalie, le storie, quindi non era una fotografa, e poi a un certo punto riesce a convincere Robert Capa a pubblicare le sue foto, e le viene chiesto di diventare la prima donna socia fotografa della Magnum. E ognuno di loro a un certo punto racconta, oltre alle foto, l'importanza di quell'impegno collettivo, del tenere insieme quella macchina che avevano costruito, che aveva costruito Robert Capa, muore pochi anni dopo averla fondata, ma che avevano costruito insieme e che porta avanti delle battaglie insieme. Ok, la teniamo qui questa storia, è una storia che teniamo qui. Grazie. Allora, questo è un articolo, vi do un po' di flash e poi arriviamo a metterli tutti in fila. Questo è un articolo che ho trovato un po' di tempo fa, in realtà non è recente, è del 2014, è di una rivista che non è proprio d'estrema sinistra, anarchica, ecco, è di Forbes. Questo Cameron Kang, che ci dice di occuparsi di tasse e di impresa, di business, articolo che si intitola "Se la Apple fosse una cooperativa di lavoratori, ogni impiegato guadagnerebbe almeno $430,000. Quello che si scopre leggendo meglio l'articolo è che lui fa questo conteggio, appunto, che riguarda il 2014, ma questi sono $403,000 in più allo stipendio. Ok? Quindi, che cosa vuol dire? Che se la Apple fosse una cooperativa di lavoratori, in cui non c'è un proprietario, in cui non ci sono azionisti che investono e che si aspettano di riprendere in misura proporzionale, ma fossero i dipendenti ad essere i soci dell'impresa, su questo anno qui, quindi ora non so se fa il conteggio sul 2013, immagino di sì, sul bilancio del 2013, ognuno di loro, quello che guadagna meno, avrebbe preso come dividendo, come ristorno, poi ci arriviamo, ma insomma, avrebbe avuto un premio di $400,000. Questo ovviamente è una cosa di fantasia, potete andare a trovare, è libero, quindi se lo cercate su Google lo potete leggere. Ovviamente questa è un'idea di fantasia, nessuno ha mai pensato che la Apple potesse diventare una cooperativa, no? Però ci serve a vedere le cose da un altro punto di vista. Nemmeno la Fiat è una cooperativa, giusto? No, non ci risulta. Però qualcuno aveva pensato di farla diventare una cooperativa. Davvero questa è storia, vi racconto una pillola di storia. Il 18 settembre 1920, sono i giorni dell'occupazione delle fabbriche, quindi c'è abbastanza casino, mettiamola così, e a qualcuno, anche qui non proprio un anarchico insurrezionalista, il cavaliere Agnelli propone come soluzione a quel momento di difficoltà nella gestione della fabbrica, perché appunto le fabbriche erano state occupate, propone che la Fiat diventi una cooperativa. Allora, questo non succede, eh? Poi c'è un dibattito, si apre un dibattito e diciamo la cosa viene accantonata e viene lasciata lì. Però questa è storia. Quindi, mentre la Apple nessuno gli è venuto in mente a un certo punto di dire oh, ma si fa a diventare una cooperativa così tutti noi prendiamo €400,000 in più l'anno, a un certo punto, in quel particolare periodo storico, in quel particolare contesto, per risolvere un problema di gestione dell'impresa e avendo visto come gli operai si stavano occupando anche della gestione della fabbrica, qualcuno, al cavaliere Agnelli, viene in mente si potrebbe fare una cooperativa, forse sarebbe meglio, sarebbe più gestibile se ognuno prendesse un pezzetto di responsabilità e di proprietà. Avanti, Giovanni. Ok, queste sono due storie che vi lascio lì, che mi servivano a contestualizzare un po' di che si sta ragionando. Allora, le cooperative sono una cosa abbastanza vecchia, è un'idea vecchia, non è un'idea nuova. La prima cooperativa nasce negli anni 40 dell'Ottocento a Rochdale, che è un paesino vicino a Manchester. Siamo nella rivoluzione industriale, un gruppo di operai tessili insomma, che lavorano 14-15 ore al giorno, si rendono conto e ci provano per anni a trovare una soluzione, che non riescono a comprare alimenti decenti a un prezzo fattibile. Quindi che, dato che loro non possono andare nei negozi negli orari di apertura, perché lavorano 15 ore al giorno dal lunedì al sabato, i negozianti se ne approfittano, i commercianti se ne approfittano, fanno dei prezzi esorbitanti e gli vendono cose non di buona qualità. Provano per anni, per diversi anni, a trovare una soluzione. Nel 1844 danno vita alla prima cooperativa di successo. Aggiungo questo perché non è che è la prima cooperativa, cioè avevano provato ma fallivano. Quindi provano, falliscono, riprovano cambiando un po' le carte in tavola, falliscono. La prima cooperativa di successo nasce nel 1844 a Rochdale e si danno alcuni principi. E come fanno banalmente? Uno di loro a turno prende un giorno libero, che non è un giorno libero, è un giorno in cui non riscuote lo stipendio, e va a Manchester al mercato a fare la spesa. Fa la spesa, la porta a Rochdale e allestiscono questo primo spaccio cooperativo dove quei prodotti vengono venduti a un prezzo un pochino superiore a quanto sono stati pagati per poter permettere di pagare quello che aveva perso un giorno di lavoro per fare questo, per fare questa cosa, e per tenere in vita l'azienda, ok? Per tenere in vita l'impresa. Nei modelli precedenti o si pagava solo quanto era costato, cioè non c'era nessun tipo di ricarico, o non venivano mai messe da parte nessuna somma per la continuità aziendale. C'erano una serie di problemi, arrivano a dar vita all'impresa e sta in piedi. Nella foto che ora non vi ho messo, ma dei pionieri di Rochdale, sono 20 tutti uomini e ma c'erano delle donne in realtà tra le socie, sono seduti intorno a una sorta di scrivania, di scranno, e sono tutti grassi perché avevano patito la fame per anni, e dopo 20 anni che hanno costruito la cooperativa l'idea era: vi facciamo vedere quanto stiamo bene ora, e siamo vestiti bene e siamo tutti non come si era 20 anni fa. Scrivono una serie di principi che li guidano, che sono parte dello statuto, sono i 7 principi che poi il movimento cooperativo ha preso come pilastri di quello che è lo scopo. E ora non li ho scritti, quindi vediamo se me li ricordo tutti, ma insomma se no mi aiuta Giovanni. I 7 principi sono delle linee guida che ovviamente rispetto al 1844 non è che sono applicate esattamente allo stesso modo, ma sono gli stessi. Ora c'è l'organizzazione internazionale della cooperazione, del movimento cooperativo, che si chiama International Cooperative Alliance, che ha sempre 7 principi che sono, anzi li stanno riscrivendo, ma si basano su quell'idea lì. Quell'idea lì è la democrazia. La democrazia è intesa come si vota alle elezioni, una testa un voto. Quindi io non conto per quanti soldi ci metto, ma conto per la persona che sono. Ok, quindi una testa un voto. Partecipazione economica all'impresa. Ognuno di noi si deve tassare e deve metterci dei soldi, altrimenti non sentirà questa cosa come sua, altrimenti non se ne prenderà cura come se fosse un suo bene. Quindi siamo forti perché ognuno di noi ha messo un pezzettino e lo gestiamo tutti insieme secondo le regole che ci siamo dati. La cura della comunità, non vado in ordine perché è impossibile, la cura della comunità, cioè lo scopo di ogni cooperativa è migliorare la vita dei propri soci, e poi entriamo nel merito, ma insomma ci sono vari tipi di cooperativa, c'è la cooperativa di lavoro, c'è la cooperativa di consumo, c'è la cooperativa di conferimento, ma lo scopo è migliorare le condizioni dei soci su vari aspetti, no? Quindi offrirgli un lavoro migliore di quello che gli offre il mercato, offrirgli beni a condizioni migliori di quelle che offrirebbe il mercato, e così via. I pionieri di Rochdale mettono tra i principi cooperativi che la cooperativa non deve prendersi cura solo dei propri soci, ma della comunità dentro la quale è inserita. Mette l'educazione, in quel momento mette l'educazione perché i bambini non andavano a scuola, perché non c'erano scuole, e quindi mette tra i propri principi che deve pagare le scuole ai figli dei soci, che deve essere offerta la possibilità di studiare a chi è parte di quella comunità. Siamo a 4, aiutami. Cooperazione fra cooperative. La cooperazione fra cooperative. Questo avevano già visto le esperienze fallite, quindi lo mettono in prospettiva. Si mettono tra i principi che per essere forti dobbiamo essere tanti e dobbiamo stare insieme, quindi dobbiamo aiutarci tra cooperative. Le cooperative più grandi devono aiutare le cooperative più piccole, ma dobbiamo essere tutti un movimento quindi dobbiamo stare insieme. Io sto leggendo, non voglio fare il film, quello è la visione libera e volontaria, e poi manca l'autonomia, l'indipendenza. Ok, adesione libera e volontaria cosa vuol dire? Che intanto i soci della cooperativa decidono di farne parte, quindi si decide di essere parte di un'impresa, ci se ne assumono anche le responsabilità, perché anche questo era uno degli aspetti su cui avevamo dovuto lavorare un po'. Quindi non si può essere obbligati, pensate a tutto il mondo sovietico, quando si parla di cooperative in tutto quel mondo là, non si è guardati benissimo, perché hanno passato anni in cui non era una libera scelta, una scelta libera e volontaria, ma era qualcosa di che sentivano li opprimeva. E l'altra cosa è il capitale variabile anche. Allora, la partecipazione economica al governo dell'impresa vuol dire che ogni socio decide liberamente di partecipare e contribuisce economicamente al funzionamento di quell'impresa, ok? A differenza delle società di capitali, dell'SRL, dell'SPA, dove c'è un capitale fisso, ok? Quindi si va dal notaio e si dice quanti soldi si mette per fare questa impresa? 1 milione di euro. Bene, quello c'è anche scritto nelle carte intestate, no? Se ci fate caso. Le cooperative sono a capitale variabile, sono società a capitale variabile. Cosa vuol dire? Che la partecipazione dei soci è l'entrata e anche l'uscita dei soci è molto più fluida, è molto più libera di quanto sia nelle società di capitale. Quindi non si... proprio perché si stabilisce il principio che sono le persone a contare più dei soldi, il consiglio di amministrazione valuta la domanda di entrare a socio, dei nuovi soci, ma non bisogna passare dal notaio. Quindi nel momento in cui io ho valutato che un socio sia idoneo a far parte della cooperativa, e non posso decidere che non lo è perché mi sta antipatico, quindi posso decidere che non lo è per ragioni oggettive, faccio l'esempio banale, sono una cooperativa di lavoro, non ho possibilità di aprire un altro posto di lavoro perché non avrei come pagare una persona, e quindi ti dico in questo momento non c'è possibilità, ma è una cosa oggettiva, non posso dire prendo te invece di te perché c'hai gli occhi azzurri, ok? Questo a maggior ragione sulle cooperative agricole di conferimento, sulle cooperative di consumo, cioè l'unico è a discrezione del CDA l'adesione del socio, l'accettazione della domanda di adesione a socio, ma appunto l'entrata è libera, si chiama principio della porta aperta, quindi in generale è inclusiva, cioè loro stabiliscono il principio dell'inclusività. Chi vuole partecipare e ha le caratteristiche per, deve avere la possibilità di farlo. Ok? Allora, vi ho fatto tutta questa pappardella, in realtà qui ho riassunto, cioè ho provato a dare tre parole, poi sono quattro, che per me sono elementi chiave della cooperazione, dell'essere cooperatori. Assumersi responsabilità. Perché si diventa imprenditori, si diventa imprenditori di se stessi e delle persone che sono con noi, ma si è imprenditori. Quindi diciamo che si interiorizza il conflitto tra dipendente e padrone, perché siamo noi che prendiamo le decisioni. È andato male Manno, non ci si riesce a pagare, con chi ci si rifà? Con noi stessi, con quelli che abbiamo scelto per guidarci, ma si è interiorizzato, ci assumiamo la responsabilità. La cooperativa è una scommessa, è la scommessa che mettendo insieme le teste di tutti le cose possano funzionare meglio che essere guidati da uno solo perché c'è soldi. Questo è in estrema sintesi. Però è una scommessa che va vinta anno dopo anno, cioè non è automatica. I valori. Le cooperative che conosco e che funzionano meglio sono quelle in cui si condivide un'idea, si condivide un sistema valoriale. si condividono dei motivi per cui si fanno le cose oltre al mero risultato economico, che è fondamentale, ma non basta quello, ci deve essere un'idea un pochino più alta, altrimenti si va nel mercato e alla fine si è già nel mercato, ma diciamo ci si mette a confrontarsi sul mercato avendo come unico punto di merito i soldi, e allora c'è qualcuno che arriva tendenzialmente dagli Emirati Arabi o da qualche altro posto che ce n'ha sicuramente più di noi. Quindi l'idea che la motivazione è una chiave fondamentale della riuscita delle cooperative. Capacità e impegno. Qui ho messo una frase di un cooperatore storico che si chiama Barberini, che diceva che per guidare le cooperative in un'assemblea di sei soci dovete scegliere i migliori e controllarli come se fossero i peggiori. Cioè, chi si mette a guidare questa cosa, chi si danno in mano i poteri ai migliori tra di noi, e poi non gliene facciamo passare una, poi li controlliamo come se fossero quelli di cui non ci fidiamo mai. Questo deve essere un po' l'idea, perché dobbiamo partecipare tutti, non può essere una delega di cui ci disinteressiamo. E in certi casi si tende a farlo, perché se si è scelto i migliori e poi ci guideranno loro, abbiamo meno spinta a essere sul pezzo se pensiamo che le persone che ci guidano siano le migliori. E invece questo è un richiamo alla partecipazione di tutti, cioè al contributo di tutti alla riuscita di quell'impresa. Queste cose che vi ho raccontato vi possono sembrare distanti dalle cooperative che avete presenti? Forse, non lo so, magari assolutamente no. Ma questo è da dove si parte. Quell'idea iniziale, quell'idea di Robert Capa che dice: io non voglio fare il fotografo in un mondo che mi dice dove devo andare, io voglio deciderlo io. È i pionieri di Rochdale che si dicono: noi non compriamo, non riusciamo a comprare da mangiare, buono, vi faccio un esempio praticissimo, loro si rendono conto quando iniziano a comprare loro la farina che fino a quel momento avevano mangiato farina mista a calce per renderla più bianca, e devono fare corsi di formazione alle donne che non vogliono la farina che gli danno adesso perché è più grigia, è più marroncina, e loro la vogliono bianca. Peccato che quel bianco era calce. Da lì nasce, non so se avete presente, ma la COP di consumo fa i corsi di educazione al consumo ai bambini delle elementari, delle medie, insomma ci sono una serie di progetti che nascono da quella cosa lì, ovviamente 170 anni, 180 anni dopo, ma che derivano dal fatto che ci sono degli aspetti che se non li prendiamo in mano ci sfuggono. Ok? Comunque, questo era per darvi un quadro del mondo in cui si inseriscono le cooperative, tutte le cooperative, che poi sono fatte di persone. E quindi, come tutte le attività, le organizzazioni che sono fatte di persone, sono plasmate dalle persone che le creano e che gli danno vita. Quindi quando trovate una cooperativa che vi sembra non seguire i valori di cui vi ho parlato, non è che è impossibile, è più che possibile, purtroppo. Noi cerchiamo di stare con le antenne dritte su quelle che fanno parte di Lega Coop, che è l'associazione dove lavoriamo io e Giovanni. Cerchiamo di avere gli occhi il più aperti possibile, ma ci sono cooperative che non aderiscono a nessuna centrale cooperativa, che quindi vengono controllate solo forse una volta ogni due anni, e quindi dallo Stato, dal Ministero, e quindi ci sono delle zone grigie in cui le persone usano uno strumento che è stato inventato, che è stato pensato per qualcos'altro, per fare affari che non sono leciti o che non lo sono del tutto. Quello che vi volevo provare a trasmettere, e poi ora lascio la parola a Giovanni e poi vi racconto di qualche cooperativa di comunità perché so che vi interessava il tema, però è l'idea centrale dell'essere cooperativa, cioè che cosa dovrebbe spingere qualcuno che fa parte di un'associazione all'idea di fare un salto, di strutturarsi di più, a diventare una cooperativa, cioè quali sono i pilastri, poi con tutti gli aggiustamenti del caso, con tutti i doversi confrontare con un mondo che è reale e in cui il mercato ha un peso e in cui ci sono tanti settori in cui ci si confronta con un'economia che non è quella legale e quindi in cui esserlo è un... Ciao, buonasera. È una sfida quotidiana, ma questi sono i principi. Questi sono i valori che dovrebbero guidare una scelta, che poi va contestualizzata nella realtà. Ok? Questo era per darvi proprio un'infarinatura. Io ora lascio la parola a Giovanni e dopo andiamo nel merito, cioè Giovanni entra nel merito di cosa si sta ragionando e poi vi racconto qualche storia un po' più vicina a noi di cooperative di comunità. Ovviamente se c'erano domande... Esatto, volevo chiedere se qualcuno aveva intanto qualche dubbio, domanda, qualche cosa da... Critica. Vorrei provare un collegato a questo Scusa, posso dire? Allora, poi hai parlato del principio dell'inclusività, okay. Sì. Che ovviamente è condivisibilissimo. Della porta aperta. Sì, la sì. Porta aperta. Però è riferito, mi sa, immagino sia riferito a dei contenuti di uno statuto che regola l'essere della cooperativa. Oppure è in assoluto. No, scusatemi, no, parlavo per diventare soci della cooperativa. Sì. Cioè, la cooperativa avrà uno statuto. Ha uno statuto e anche un regolamento, tendenzialmente, se si parla di cooperative di lavoro, per forza, ma insomma si può usare di un regolamento. E ovviamente lo statuto può contenere degli elementi, tipo si può diventare soci della cooperativa, vi faccio l'esempio proprio delle cooperative di comunità. La maggior parte dei soci della cooperativa di comunità deve vivere nel comune dove si trova la cooperativa. Quindi questo è un elemento... deve essere residente o deve essere domiciliato, cioè si possono mettere dei paletti ovviamente, per esempio se ora c'è stata una legge abbastanza di recente, se un socio della COP di consumo non ha nessuno scambio con la cooperativa per un anno, quel socio deve essere buttato fuori, cioè non si considera più, perché vuol dire che non è interessato a quello per cui la cooperativa esiste, no? Nel caso delle cooperative di lavoro, questo può essere ancora più specifico, facevo l'esempio della Magnum, per diventare soci della Magnum il percorso dura anni, cioè si passano vari step, si può essere socio in prova, cioè è previsto nello statuto la figura del socio in prova, perché essere socio prevede comunque una fiducia reciproca, poi ovviamente questo nel caso di cooperative con 10 soci è più facilmente gestibile. Quando la cooperativa ha 1 milione di soci non è che c'hai fiducia tra i soci perché non è che li conosci tutti. Quindi ci sono delle regole, vengono date delle indicazioni. Però il principio della porta aperta è, diciamo, risponde all'idea che le cooperative nascono per rispondere a un bisogno delle persone. Quindi se quel bisogno è condiviso da più persone, la cooperativa deve essere una risposta a quel bisogno e quindi anche ad altre persone. È della serie, se ci si fa bisogna farlo. Se siamo nelle condizioni di, dobbiamo farlo. Se poi appunto ci sono gli statuti, i regolamenti, non è che uno si trova a un certo punto e ha 10 soci lavoratori, non sa cosa fargli fare, non gli può pagare lo stipendio e questo ovviamente è un problema, ma l'idea è quella, è di rispondere a un bisogno delle persone e quindi di essere a disposizione della comunità, con tutti i distinguo del caso. Però ecco, ovviamente non si può non accettare un socio per motivi che possono essere discriminatori per il sesso, la religione, tutto quello che vi può venire in mente. Quindi seguendo il discorso che faccio, una cooperativa di lavoro può, se bisogna una comunità è un asilo, non so, una cooperativa di lavoro può aprire potenzialmente sì, diciamo sì. C'è un asilo, una scuola piuttosto che una, certo, la cooperazione inglese apre scuole cooperative a giro per l'Inghilterra, perché a un certo punto cioè, non si trova il lavoro, non è che deve diventare cooperativa di servizio oppure di quello della... Allora ora poi si entra per bene nel merito, però la cooperativa di lavoro, se te hai 100 persone a lavorare e di queste 140 hanno fatto un figliolo l'ultimo anno, situazione che non si verifica, ma insomma fatto per esagerare, può avere senso costruire un asilo nido per rispondere ai bisogni della sua comunità. Poi non è che si deve far carico dei problemi dello Stato in generale, perché se no sarebbe impossibile, no? Cioè se non è che devi aprire le strade, i conti, però ecco, però proprio faccio un esempio proprio nel merito, perché me l'hanno raccontato poco tempo fa, negli anni del dopoguerra nel senese, appunto, dopo vi racconterò del Teatro Povero di Monticchiello, che forse qualcuno di voi ha sentito dire, mi raccontavano i ragazzi del Teatro Povero che nel dopoguerra facevano gli scioperi al contrario, ora non mi ricordo il nome, ma una cosa del genere, per cui scioperavano per costruirsi le strade. Quindi non venivano pagati un giorno e destinavano quella giornata di lavoro a costruire le strade, perché sapevano che quello sarebbe stato un arricchimento alla comunità, che è una cosa che ora ci sembra... insomma, non sarebbe neanche possibile, non usuale. Detto questo, non è che la cooperativa si deve far carico di tutti i bisogni che ha la comunità, però ha nei suoi principi fondanti di occuparsi non solo di se stessa, questo ovviamente nel range delle sue possibilità. Di nuovo faccio l'esempio che è facile, ma le grandi cooperative spesso fanno progetti che non c'entrano con il loro oggetto sociale, cioè spesso portano avanti iniziative o comunque fanno attività sociali che non riguardano il loro specifico oggetto sociale. Esatto. Quindi non so se siete mai andati a un museo con la tessera della Coop e vi hanno fatto lo sconto. Quello non c'entra niente con il comprare le zucchine a un prezzo migliore, c'entra con un'idea di contribuire alla vita dei tuoi soci, in quel caso con un contributo sulla parte culturale.